Voci in scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, eccoci a un nuovo appuntamento con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, della cultura. È nato a Udine nel 1968, ma è cresciuto a Brescia, dove comincia a suonare negli anni delle superiori. Il suo primo gruppo si chiama Modus Vivendi, ma poco dopo entra in un'altra band, diverranno i Timoria, che cominciano poco a poco a macinare successi. Nel 1991 vincono a Sanremo il premio della critica. Lui lascia il gruppo nel 98, nel 2000 torna da solista. Nel 2001 ancora Sanremo, ancora tra i giovani, e rivince il premio della critica con Raccontami. Sanremo di nuovo, ma tra i big nel 2002 e nel 2005, questa volta con Angelo vince. Arrivano poi tre album vendutissimi, Ferro e Cartone, Orchestra e Voce e l'ultimo, Un giorno bellissimo. Stiamo parlando di e con Francesco Renga. Con lui partiamo proprio da Un giorno bellissimo. Sì, un disco inedito che era in preparazione da 3 anni quasi, quindi in realtà è un disco che è stato semplicemente posticipato. Il lavoro è proseguito anche durante la realizzazione e poi il tour di Orchestra e Voce. Tutte le cose migliori insieme a Celso Valli, che poi ha prodotto il lavoro, che hanno caratterizzato questo percorso ormai 25ennale, quindi quasi un quarto di secolo, questo la dice lunga sull'età che ho, quindi dai Timoria, dal rock, dalle prime esperienze fino appunto a questo eccelso Valli Orchestra e Voce. Quindi c'è come DNA, come nocciolo, come centro di questo disco, c'è una band che suona, una band come si faceva negli anni 70, quindi in presa diretta, e sopra il quale, intorno al quale poi insieme con Cesso abbiamo costruito tutta il mondo, il mood di questo giorno bellissimo. È un disco che parla ancora una volta, come sempre, come credo debbano fare tutti i grandi dischi, e fanno in realtà tutte le grandi canzoni, d'amore. Parla di amore in senso assoluto, quindi non di banali storielle di coppia né di baci e tenere carezze, ma parla di quel lavoro che è la consuetudine dell'amore, quindi non tanto gli estremi nel bene e nel male, quindi l'inizio, la passione, l'innamoramento, l'idillio, oppure la tragedia, la disperazione del termine di una storia d'amore, ma di quello che sta in mezzo, della fatica e del lavoro che si fa per far proseguire una storia d'amore, per farla crescere, quindi dei sacrifici, dei compromessi che si fanno quotidianamente nelle banalissime giornate di ognuno di noi per tenere unita una famiglia, per far crescere i figli, per fare tutto quello che si deve fare con responsabilità per far sì che una storia d'amore prosegua. Come in tutto quello che faccio, paradossalmente anche Orchestra e Voce era un disco autobiografico e raccontava la mia fanciullezza attraverso quelle canzoni. Qui racconto, certo, di me, parlo sempre solo di me, non lo faccio per egocentrismo né per narcisismo, ma lo faccio perché questa è, credo debba essere e sia l'urgenza di ogni, tra virgolette, insomma, per quello che riguarda me, artista. L'artista è quello che ha in mano un modo, un linguaggio per riuscire a raccontarsi, a raccontare il proprio mondo, quelli che sono i propri nodi, le proprie paure e il fatto di non sentirsi quasi mai adeguato, e usa appunto questo linguaggio, per quello che mi riguarda, la canzone, la voce, per esplorare anche queste zone, le zone d'ombra, le cose difficili da raccontare se non in quel modo. Quello che vedo intorno in realtà è un fuggi fuggi generale dalle vite di ognuno, proprio per rifugiarsi invece nelle vite degli altri, quasi le nostre ci spaventassero. Io invece ho affrontato il problema e affronto il problema di petto, quindi esploro soprattutto la mia esistenza, anzi mi interessa pochissimo dell'esistenza degli altri e credo che questa deformazione che viviamo del gossip sia un po' frutto di questa paura dell'ignoto che sta dentro di noi, quindi la paura di affrontare quelle che sono le nostre esistenze e cercare in realtà conforto, soddisfazione, rivincite nelle vite degli altri. Questo disco invece cerca di fare un discorso e cerca di andare in una direzione opposta. Per non affrontare i propri problemi o le proprie paure o le proprie frustrazioni o le proprie incomprensioni o le proprie inadeguatezze o i propri limiti, tutte le cose che ci danno fastidio e che in qualche modo delle quali cerchiamo rivincita nelle vite degli altri. Ah, hai visto però, cazzo, anche Corona, la Belen e Francesco Renga si sposa. Sono tutte cose, secondo me, che sono frutto di un malessere, un disagio esistenziale profondo che trova sfogo in queste manifestazioni che per quello che riguarda il gossip appunto hanno questo aspetto negativo. E poi c'è un aspetto invece positivo che è quello della solidarietà, no? Del volere occuparsi delle vite degli altri anche in un senso assolutamente positivo, che però alla fine assolvono tutte quante queste due manifestazioni nel bene e nel male allo stesso bisogno di fare pace con la propria coscienza, allo stesso bisogno di affrontare quelle che sono le nostre mancanze e tutto quello che in realtà di irrisolto rimane dentro di noi. Resti fedele all'idea di casa discografica. In tanti però invece hanno pensato o stanno facendo dei percorsi diversi. Tu cosa ne pensi? Io credo che la casa discografica in questa crisi abbia delle pecche pesanti. Non è riuscita ad intravederla, non è riuscita a gestirla, non ne ha visto il nascere e non ne vede la fine. E sta cercando di recuperare posizioni nel modo più drastico e canonico possibile, quindi tagliando posti, cercando di risparmiare. Il problema principale è che non è riuscita ad assolvere a quelli che sono i compiti della casa discografica, delegando quello che dovrebbe essere il lavoro della casa discografica, per esempio, alla televisione. La casa discografica era quella che doveva fare da talent scout, trovare dei personaggi, degli artisti con l'X Factor e farli crescere anche attraverso un percorso che spesso era anche costellato di errori, di passi falsi, e quindi era quella che ti dava la possibilità di crescere. Questa crescita, questo percorso, questa gavetta adesso si fa in televisione. È molto più veloce, è tutto accelerato, c'è in mezzo, c'è potentissimo della televisione dietro a fare da cassa di risonanza a questo percorso e quindi è diventato questo lo spettacolo. E questo secondo me è un altro grandissimo errore. L'altro errore che sta facendo in questo momento, secondo me, è, ahimè, alle spalle di questi ragazzi, prenderli e usarli in maniera stagionale per il successo che hanno in quel momento e poi lasciarli un po' a loro stessi, e questa è una cosa secondo me deleteria, soprattutto a quell'età, soprattutto in quel momento, soprattutto dopo quello che succede, per esempio, dopo una vittoria come quelle che abbiamo visto in passato. E quindi sta in questo momento sfruttando ancora una volta l'effimero di un momento, di una situazione favorevole per come dire, evitare di invece risolvere e capire quali sono i veri problemi che in questo momento ha la casa discografica. Detto tutto, fatta questa premessa, credo credo ancora nella funzione della casa discografica, credo che sia il posto giusto nel quale continuare a fare questo mestiere, finché me ne daranno la possibilità ovviamente, però credo che sia il pericolo sia grande, quindi in realtà secondo me il problema non è quanti artisti se ne vanno, è ci saranno tra 3 anni, 4 anni ancora le case discografiche, avranno senso? In realtà il discorso è un po' al contrario, secondo me. Il rischio è che loro scompaiano più che gli artisti se ne vadano dalle case discografiche. Ora che tutto è passato e non dormo più accanto a te. Il problema delle tecnologie, ovviamente il problema della pirateria, qual è il tuo rapporto con tutto questo aspetto nuovo, tra virgolette, del mestiere? Tipo un contadino che cerca di capire che cosa sia una centrale nucleare. Faccio fatica, però sono curioso e cerco di capire, mi interessa e mi affascina anche moltissimo il mondo. Per quanto riguarda la musica e il download, credo che la cosa non sia assolutamente risolvibile, se non alla fonte. Secondo me tutti gli esperimenti che sono stati fatti per arginare la pirateria e il download non possono funzionare e non hanno funzionato, infatti, perché non possono funzionare. Bisognerebbe capire se, come dire, la scelta è come sempre purtroppo politica, bisognerebbe capire se a qualcuno interessa salvare questo mercato e tutelare anche gli artisti e anche chi lavora nell'indotto della discografia. Proprio perché secondo me la cosa il problema va affrontato alla fonte, quindi c'è un web che è destinato comunque a diventare sempre più cosa pubblica e gratuita, quindi nella democrazia del web, quindi deve essere tutto a portata di tutti, sempre fruibile in ogni momento e gratis. A fronte di questa cosa ci sono grandi centri di potere economico che invece su questo aspetto lucrano tantissimo. Secondo me bisogna andare lì e dire ok, è vero che tu fai questo, sei un portale e tutto, però attraverso il tuo segnale, la tua cosa, passa un sacco di roba che invece non hai pagato. E dire, non so, 1 euro di tutta questa cosa, di tutto questo tuo business lo devi allocare ai libri, ai cinema, ai film, ai musicisti, alla SIAE. È l'unico modo, secondo me, è quello, ma non succederà mai perché questi centri di potere economico sono tutelatissimi da questo punto di vista. Era Francesco Renga, il nostro protagonista di oggi. L'appuntamento è domani ancora con una nuova voce in scena. Da Marta Cagnola, l'augurio di una buona giornata.